9 gennaio de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 9 gennaio. Scrivo in casa del Maralli. Ho un nodo alla gola, è duro fatica riordinare le idee per raccontare qui la scena di ieri che è stata come la scena d'una tragedia, ma non di quelle che fa D'Annunzio, che sentii recitare una volta e che anche la mamma diceva che non poteva stare, benché le mie sorelle le dessero sulla voce dicendo che dipendeva che lei non era intellettuale. La mia invece è una tragedia vera che si potrebbe intitolare Il piccolo bandito, ossia la vittima della libertà, perché in fin dei conti tutto quello che mi succede è stato per dare la libertà a un povero canarino che la sora Matilde voleva tenere chiuso in gabbia. Ieri mattina, dunque, il babbo venne a prendermi a Roma e naturalmente ebbe dal collalto la descrizione di tutte le mie birbanterie, meno si intende quella della marchesa Sterzi e del marchese che fa la cura della cipolla. Il babbo è stato a sentir tutto e da ultimo ha detto «Ora il vaso è colmo». E non mi ha detto più una parola finché non siamo arrivati a casa. Lì ho trovato la mamma e l'Ada che mi hanno abbracciato tutte piangenti, ripetendo come un lamento «Ah, Giannino! Oh, Giannino!». Il babbo mi staccò da loro, mi accompagnò in camera mia e lì mi disse serio serio, con voce calma, queste precise parole. «Ho già fatto tutte le carte necessarie e domani andrai in collegio». E se n'andò richiudendo l'uscio. Più tardi venne l'avvocato Maralli con mia sorella Virginia e l'uno e l'altra fecero di tutto per rimuovere il babbo dalla sua risoluzione, ma io sentivo che il babbo ripeteva sempre questo ritornello: «Non lo voglio più vedere, non lo voglio più vedere». Bisogna che renda giustizia all'avvocato Maralli. È un uomo di cuore che difende i deboli contro la persecuzione e contro le ingiustizie e che a tempo e luogo sa mostrarsi grato dei benefici ricevuti. E per questo, ricordando la pistolettata che gli tirai nell'occhio, ha detto al babbo: «Che vuole? Quel ragazzo fu lì per accecarmi e dopo, il giorno in cui sposai Virginia, andai anche a rischio di essere seppellito vivo sotto le rovine del caminetto nel salotto da ricevere. Ma non posso dimenticare che io e Virginia dobbiamo a lui se siamo uniti». E poi prese anche le mie difese a scuola contro il nipote di Gaspero Bellucci che diceva male di me. Io l'ho saputo e questo indica che Giannino è un ragazzo di sentimento, non è vero Giannino? Perciò io gli voglio bene, perché bisogna guardare al fondo delle cose. Per esempio, anche per quei danni commessi a Roma, dopotutto il movente è stato generoso e egli voleva dar la libertà a un uccellino. Che avvocato d'ingegno è il Maralli! Io che stavo fuori dell'uscio a sentire questo suo discorso così poderoso, non potei più star fermo ed entrai nella stanza gridando «Viva il socialismo!» e caddi nelle braccia di Virginia singhiozzando. Mio padre si mise a ridere e poi disse asciutto: «Va bene, ma poiché il socialismo vuole che ciascuno abbia la sua parte di gioia nel mondo, perché l'avvocato non ti prende con sé per qualche tempo?» «E perché no?» esclamò il Maralli. «Scommetto che ho la maniera di farlo diventare un omino». «Sentirei che gioia», disse il babbo. «In ogni modo, siccome io non voglio più vederlo, per me lo scopo è ugualmente raggiunto. Piglialo pure». E così fu conchiuso il patto. Io sarei stato bandito da casa mia e tenuto in prova per un mese dal Maralli, dove potrò riabilitarmi e dimostrare che non sono, in fondo, quell'essere insopportabile che dicono tutti. Virginia e suo marito, fin dal loro ritorno dal viaggio di nozze che fecero quando prese fuoco il caminetto nel salotto da ricevere, vennero ad abitare questo quartiere che è molto comodo e centrale e dove mio cognato ha messo pure il suo studio d'avvocato, che ha un ingresso a sé ma che comunica con la casa per mezzo d'un usciolino che mette nella stanza degli armadi. Io ho una cameretta piccola ma elegante che dà sul cortile e dove sto benissimo. In casa, oltre mia sorella e il Maralli, c'è il signor Venanzio, zio del Maralli, che è venuto da qualche giorno a passare un po' di tempo presso il nipote perché dice che questo clima gli giova di più alla salute. Però la salute non si sa dove l'abbia, è un vecchio cadente, sordo al punto che bisogna parlargli col corno acustico e ha una tosse che pare un tamburo. Dicono però che è ricco sfondato e che bisogna trattarlo con tutti i riguardi. Domani ritorno a scuola. Fine del 9 gennaio.